Ciao a tutte e tutti, tutto. Io sono Marco del gruppo di ricerca Ippolita che cura la collana Culture Radicali per l'editore Meltemi. Qui con noi oggi abbiamo vari ospiti per presentare Natura e Contro Natura di Dario Alì e Vincenzo Grasso. Vincenzo Grasso non c'è perché è dall'altra parte del mondo. E abbiamo con noi invece Dario, che è ricercatore. Che è ricercatore indipendente, cofondatore di Kabul e formatore. Abbiamo con noi Chiara di Zam, che è persona attiva in tanti progetti qua di Zam, tra università popolare, concorsi di scrittura e quant'altro. Poi abbiamo Mauro Muscio, libraio indipendente della libreria Antigone di Via Kramer a Milano, e nonché cofondatore della casa editrice Asterisco. E poi abbiamo Bianca Notarianni, che è attivista antispecista, si dedica agli animal studies e di recente ha tradotto Capitale Animale per Tamo. Siamo in tante, io dirò poche parole per non rubare troppo tempo. Dunque, innanzitutto mi fa molto piacere essere qui e ringrazio appunto Zam per l'ospitalità nei confronti del festival e Clarissa che ci ha permesso di presentare il libro. Devo dire che questo è un libro che quando ci siamo sentiti le prime volte, ci ha messo in contatto un amico comune che è Claudio Culesco per presentarci questa idea e all'epoca come spesso succede quando ti presentano dei progetti per dei libri, non sai mai bene qual è la forma che prenderà il progetto, perché il libro ancora non c'è. E però devo dire che avendo visto poi il libro prendere forma piano piano e averlo poi visto dopo nella sua versione definitiva, ci ha convinto che questo sia un libro che dialoga molto bene anche con una serie di altri testi che abbiamo già pubblicato in questa nostra collana. Per esempio, i testi di Angela Balzano, oppure quello di Federico Zappino o di Citti, ma anche per altri versi, quelli di Rosy Braidotti o di Caronia o di Rachele Borghi. Perché di fatto questo testo, appunto, Natura contro Natura, un'estetica ecoqueer, è un testo molto trasversale che tocca tante questioni e tanti elementi, ed è molto ricco di elementi che si pongono in modo molto trasversale tra l'ecologia, il discorso sull'arte, un discorso partigiano sull'arte, la cultura queer e una certa idea di ecologismo che proprio si basa sulla rimessa in discussione di cosa è natura e di che cosa è contro natura. Ovviamente, il punto di partenza è che è sotto gli occhi di chiunque abbiamo un problema con la natura, nel senso che la natura solitamente è vista o come materia prima da estrarre e sfruttare. Quindi è sempre completamente oggettificata, oppure è un'alterità radicale e irraggiungibile, qualcosa che è altro rispetto ai cosiddetti esseri umani, oppure, ma sempre tradizionalmente, voglio dire, è quell'elemento normativo che viene usato all'interno dei discorsi sociali e quindi dei discorsi che creano una cultura diffusa per stabilire cosa è dentro e cosa è fuori, cosa è dentro la norma e cosa è fuori dalla norma. Quindi, insomma, abbiamo tanti problemi con la natura. Non ultimo il fatto che ovviamente parlare di natura vuol dire indicare quel referente assente che è l'essere umano, che chiaramente si definisce e si ridefinisce ogni volta che andiamo a intessere un discorso su cosa è e cosa non è la natura e cosa vuol dire essere contro natura. E, perché appunto anche l'essere umano ha una sua vicenda, una sua storia, è un concetto come gli altri e per quanto ci riguarda noi che, come dire, veniamo, siamo molto vicini e abbiamo a cuore un certo discorso invece che si basa sulla rimessa in discussione proprio di quello che è l'essere umano in chiave postumanista, ci sembra che a un certo punto salutare l'essere umano sia anche qualcosa di salubre, nel senso che la cultura che abbiamo ereditato ci porta alla situazione di oggi, la situazione di oggi è disastrosa e quindi ben venga tutto quello che rimette in discussione tutta una serie di parametri che evidentemente portano alla rovina. In ultimo è un libro che riflette in una maniera molto profonda sul rapporto proprio tra vivente e non vivente. C'è una bellissima metafora che viene presentata sul finire del libro, che è quella della palude, come elemento naturale che tradizionalmente è sempre stata vista come qualcosa di assolutamente negativo, perché con la palude non ci fai niente e quindi non puoi, come dire, sfruttare la palude per fare qualcosa. Quello che devi fare è bonificare e per poi o coltivare o costruire, una delle due. Invece, appunto, la palude è un elemento preziosissimo di biodiversità e, anzi, in alcune culture extraeuropee, proprio legate all'elemento della palude, ci sono, come dire, miti ancestrali molto interessanti che ruotano intorno ad essa. E, cedo la parola, quindi, Chiara, l'idea è quella comunque di, anche se siamo a metà di mille da questa parte, l'idea è quella comunque di creare un momento dialogico, per cui quando volete intervenire, intervenite, e la stessa cosa vale anche per noi che siamo di qua, e basta, Chiara. Dai. Allora, mi ricollego proprio a un altro invece, un'altra metafora che ricorre più spesso nel libro, e cioè quella fra l'erbaccia, quindi un elemento che di solito nella natura viene visto come qualcosa da estirpare o comunque di non produttivo, no? Che è nocivo. Ha un capitolo che ho trovato estremamente interessante, premesso che quello che appunto veniva accennato, il libro è ricchissimo di spunti di qualsiasi tipo, quindi è anche difficile selezionare da dove partire. Uno dei capitoli è proprio dedicato ai mostri. Cosa si intende? Tutto quello che nell'eteronormatività viene tenuto escluso. E volevo diciamo citare un intervento di una citazione di Preciado in cui si parla del corpo e dice: il corpo diventa umano solo quando è sessuato. Un corpo senza sesso, come un corpo disabile, è considerato mostruoso, non umano. Seguendo questa logica, soltanto un pene o una vagina, visualmente identificabili, si possono considerare organi per produrre umani. A qualsiasi altro organo, il naso, la lingua o le dita, manca il potere di definire umano il corpo umano. Ne deriva dunque che gli organi sessuali non sono unicamente organi riproduttivi, nel senso che permettono la riproduzione sessuale della specie, ma sono anche e soprattutto organi produttivi della coerenza del corpo veramente umano. Questa citazione mi ha molto colpito, nel senso che si ricollega a tutta una serie di concetti che vanno contro, no? L'estetica queer e ovviamente il ragionamento su tutta una serie di istruzioni, no? di caposaldi dell'eteronormatività. Quindi io volevo chiederti appunto un commento prendendo spunto da questa citazione, anche per, diciamo, parlare un po' di tutto quello che viene affrontato più o meno in questo capitolo e dare modo anche a chi non ha letto il libro di avere qualche spunto di intervento. Ok, non mi aspettavo di dover parlare subito. Grazie. Prego. Vabbè, faccio una premessa molto breve. In realtà è stato detto, il libro non l'ho scritto da solo, ma insieme a Vincenzo. Quindi uno era l'autore intelligente, l'altro era l'autore bello. Oggi vi siete beccati quello bello. Quindi sai che... Sì, così. E venendo appunto al capitolo in cui abbiamo affrontato il tema della mostruosità, legato anche in realtà al tema dell'animalità, perché non è un caso, insomma, che i corpi considerati come mostruosi dall'eteronormatività, quindi quei corpi non conformi con un'identità di genere che non rientra nel binarismo sessuale e insomma che in qualche modo confutano un'idea di natura come eterosessuale, come binaria, sono corpi che storicamente sono stati anche animalizzati, cioè c'è una rappresentazione di questi corpi, dei corpi appunto trans, ma non solo, anche dei corpi non bianchi, dei corpi insomma che non rientrano nello standard eteronormativo bianco, che sono stati appunto rappresentati spesso come animali, come bestiali, come corpi appunto deformi in diverse rappresentazioni della storia dell'arte, sin diciamo dalle origini della nostra cultura occidentale fino a anche ai giorni nostri. E rispetto al tema appunto del corpo trans, la cosa che a noi interessava era quella di riuscire a dare una visione di questa rappresentazione contro natura, quindi di questi corpi rappresentati come una violazione dell'ordine naturale, con una chiave in realtà positiva, cioè la mostruosità deve essere rivendicata. E a proposito proprio della mostruosità, dell'essere in between, no? Del corpo che è ibrido, del corpo mutante, del corpo che non viene categorizzato all'interno di categorie appunto eteronormative, ci sono diversi esempi nella storia dell'arte, ma insomma non soltanto, anche hai citato Preziado, ma ci sono diversi testi anche che affrontano la questione della transessualità legandola alla mostruosità rispetto all'immagine di Frankenstein. Cioè ci sono proprio degli studi, delle letture del corpo trans come un corpo diciamo appunto ibrido, perché appunto in qualche modo non potenziato dalla tecnica ma in trasformazione. E il tema proprio della rivendicazione della mostruosità è un tema che viene anche rivendicato in artiste come, non so, Agnes Questionmark, che è una delle artiste contemporanee che abbiamo sicuramente in questo libro più apprezzato, che fa proprio della mostruosità una sorta di bandiera, una sorta di rivendicazione del proprio stare nel mondo, quindi una rappresentazione autodeterminante rispetto a come la concezione eteronormativa vorrebbe in realtà collocarla, ovvero come il contronatura. E questo tema del contronatura nasce proprio dal desiderio di voler dare una rappresentazione dall'interno, quindi dalle comunità che sono state storicamente concepite come contrarie al volere divino, in realtà al volere, all'ordine naturale, per cercare proprio invece di restituire un'immagine che celebra in realtà la diversità, l'essere in between, l'essere mutante, l'essere abietto, come qualcosa in realtà che è assolutamente presente anche nella natura, non nel concetto di natura per come appunto la società eteronormativa lo considera, quindi la natura con la N maiuscola, ma appunto per come in realtà poi appare andando ad osservare effettivamente il mondo naturale, il mondo vegetale, il mondo animale, dove sostanzialmente l'anomalia, quella che viene appunto etichettata come anomalia, è in realtà molto più frequente di quel che si pensi, perché appunto in natura, nel mondo animale, è presente appunto l'ermafroditismo, sono presenti entità non binarie, sono presenti anche appunto esatto, meccanismi di riproduzione che non riguardano semplicemente l'eterosessualità, cioè come dire, siamo anche di fronte a meccanismi riproduttivi di autofecondazione. Quindi diciamo che da questo punto di vista il desiderio nostro nella nostra ricerca, che è una ricerca focalizzata proprio sui modi in cui vengono rappresentate nell'immaginario comune queste entità, queste identità marginalizzate, il nostro desiderio era quello di restituire una forma di agency e di soggettività a soggetti che fondamentalmente hanno vissuto in realtà dei meccanismi di oggettificazione e dei meccanismi di esclusione dal regno del naturale. Non so se ho risposto. Assolutamente sì. No. Almeno per me sì. Grazie. Passo. No, grazie a te. Prego. Intanto grazie per l'invito e grazie per avermi fatto leggere questo libro. Lo dicevo prima, e io sono sempre molto a disagio con un microfono in generale. Prendi un microfono che non va, cioè che non va, che non riproduce la voce. Quindi mi mette molto a disagio, però non vendo io i libri oggi nonostante sia un libraio, non mi hanno pagato, quindi sono molto sincero nel dire che è uno dei libri più belli che io abbia letto negli ultimi anni, pieno di spunti, pieno di riflessioni, pieno di storie, pieno di genealogie, e soprattutto, almeno dal mio punto di vista, per quello diciamo di cui mi occupo più io nella vita, mi ha aperto anche nuove porte, almeno mi ha indicato le porte, poi adesso vedo se quando ho tempo come aprirle, però lo diceva te prima, in realtà tutte e tre, c'è la natura, ci sono le teorie queer, c'è il femminismo, c'è l'arte contemporanea, c'è la musica, cioè ci sono tanti elementi che ti spingono, almeno a me hanno spinto a prendere molti appunti, a cercare molti link online, perché ripeto, sono molto sincero in questo, ho già presentato dei libri a Zaun, quindi qualcuno lo sa che vado abbastanza diretto su alcune questioni, cioè se mi fa cagare lo dico, non è un grosso problema, non l'è mai stato. Ne consiglio la lettura e lo studio soprattutto, che è una pratica che io considero ancora molto importante, diciamo, non solo individuale, anche collettiva, ma insomma matita, penne, evidenziatori per individuare quei concetti. Quando ci hanno chiesto via mail, diciamo, di cosa voler parlare, ce lo siamo detti anche prima, è stato molto difficile perché ci sono appunto diversi aspetti e individuare quello di cui parlare non è facile, perché poi i vari aspetti si collegano tra loro, quindi questo non aiuta. Io farò una riflessione. Ah no, scusate, un altro elemento che volevo dire, perché prima ne parlavamo, questo libro in Italia oggi aiuta anche a ricostruire, secondo me, rispetto ad altri testi dell'editoria indipendente o non indipendente, aiuta anche a ricostruire pezzi delle genealogie, dei pensieri femministi, ecofemministi, che in Italia non hanno avuto quel successo, di divulgazione, se non in alcuni ambienti o molto politici o di accademia o di studio o nei loro ibridi, però e quindi ricostruisce quello che è stato il pensiero tanto il pensiero femminista, all'interno del quale si sviluppa il pensiero ecofemminista, e questo è un ennesimo pregio, perché penso che la ricostruzione delle genealogie del pensiero sia un elemento importantissimo. Non lo dico perché sono nostalgico, soprattutto perché non posso essere nostalgico di periodi che non ho vissuto, però aiuta a comprendere che cos'è lo sforzo mentale di leggere le complessità intorno a noi, o le complessità in cui noi siamo. E l'ecofemminismo nella sua storia del passato, ma anche del presente, con le sue diciamo, nomi di autrici soprattutto, e di alcuni titoli di libri che hanno contribuito a rafforzare, ad aprire brecce, porte, è sicuramente qualcosa che ad oggi in Italia, in questo momento, è molto utile, e secondo me è molto utile anche ai movimenti transfemministi queer, che indagano e riflettono su grossi temi per affrontare il presente e il futuro. Ciò detto, a me è piaciuto molto il capitolo 3. Per molti anni ho vissuto col mio compagno, che come pratica di vita per rilassarsi, per sfogarsi, aveva il giardinaggio. Cioè non è morto, ha il giardinaggio anche ad oggi, però non viviamo più insieme. E il terzo capitolo indaga un po' la relazione con le piante, ma indaga anche le pratiche di resistenze attraverso la relazione che possiamo instaurare con le piante, e in particolar modo, leggendo il libro, ci sono più paragrafi di questo capitolo dedicati alla figura di Derek Jarman, regista britannico morto di AIDS, morto di AIDS, scusate, negli ultimi anni della sua vita si era in qualche modo rifugiato, uso questo termine anche se non lo so se mi piace, ma tanto adesso poi lo spiego, si era rifugiato in questa casa nel sud dell'Inghilterra, nel sud del Regno Unito, che si chiamava Prospect Cottage. Io sapevo, conoscevo la figura di questo regista, ho visto alcuni dei suoi film, e anni fa l'Ippocampo fece questo libro che si intitolava I giardini di Derek German, e questa cosa mi aveva molto incuriosito ai tempi, che però quello era un libro soprattutto fotografico. Quel libro fotografico l'ho capito leggendo questi paragrafi, perché in questi paragrafi dà un senso a queste fotografie e a questi giardini, perché quel giardino è un giardino con diversi significati interni ed esterni, e diversi significati che leggendo arrivano fino ad oggi, perché rimane ad oggi un luogo visitato dalle comunità queer. Si inserisce questo paragrafo all'interno, ripeto, di un capitolo più ampio sul giardinaggio, che ha anche delle letture queer e decoloniali di quello che è il giardinaggio, le piante, il cosa significa fare un giardino, costruire un giardino, che cosa significa scegliere delle piante e la storia di queste piante, da quali contesti arrivano e perché piantiamo un certo tipo di pianta che fino a un tot di anni prima non era presente sul territorio, ma importata da altri contesti, soprattutto se quei contesti erano frutto di sfruttamento e colonialismo di quei territori. All'interno di questo compare questo giardino di Derek, che è un giardino selvatico, è un giardino che non ha recinzioni, è un giardino che lascia piena libertà di sviluppo, di vita, di vitalità a queste piante. È un giardino pieno di erbacce, quando in un giardino classico verrebbero tolte e pulite. È un giardino che non ha diciamo linee rette, non ha una norma, almeno apparente in questo senso, o meglio non ha una norma progettata da Derek in questo diciamo come dall'umano che stava, ma è un giardino che riflette la natura in tutte le sue sfaccettature, anche quelle malinconiche nel caso, perché è una natura che combatte un vento molto forte, perché sta vicino a delle scogliere, e che quindi è una natura che resiste, cede, si incontra e scontra con il vento. È una natura, ripeto appunto, che non ha delle norme geometriche visibili tracciate dall'umano, ma che lascia la piena libertà di prendersi lo spazio, di mutare, di rompersi, di relazionarsi con altri esseri viventi che lo attraversano. Ma noi leggiamo attraverso i diari di Derek che quel giardino ha assunto un significato particolare i diari che vengono citati, ci sono delle citazioni, i diari sono scritti tra l'89 e il 90, quindi va contestualizzato Inghilterra anni 80, fine anni 80, inizio anni 90, va contestualizzato la persona sieropositiva in un momento storico in cui non solo l'omofobia di Stato istituzionale, Thatcher insegna, insomma, colpisce duramente le comunità queer, ma arriva lo stigma dell'AIDS che si accumula, diciamo, alle morti delle persone, alle morti non solo fisiche, anche politiche, di un pensiero, dei collettivi, delle realtà che avevano trovato, tra le altre, nella sessualità e nella corporeità, grossi strumenti di liberazione. E allora il giardino assume anche questo significato, un giardino in cui si contempla, un giardino in cui si trova un rifugio, un giardino in cui, leggiamo dai diari, c'è una relazione sia col proprio essere, in quel caso sieropositivo, sia con l'essere anche omosessuale, laddove con questo termine, appunto, contestualizzato in quegli anni, significa un fuori norma, colpito, umiliato, contrastato anche dalle istituzioni. E questo secondo me è importante dirlo, perché sono passati neanche 50 anni, ma non è detto che questa memoria, questa storia, questi racconti possano oggi essere capiti e colti del tutto, invece dovrebbero, perché fanno parte anche questo della nostra storia. E allora ne esce, mi viene da dire, una figura tutta, quindi Derek nel giardino, il giardino stesso, gli amici, ne esce una figura che oggi diremmo queer, che forse ai tempi forse stava nascendo questo significato dal basso e poi dall'alto e nelle loro contaminazioni, quindi dalle piazze e dalle accademie, però diremmo oggi queer sicuramente, perché è quel luogo della natura e del giardino, un luogo che distrugge la temporalità classica, la norma del tempo, è un luogo che distrugge lo spazio classico normato, è un luogo che resiste cedendosi anche, questo termine che non so se mi piace più, che era quello della resilienza, che teneva dentro queste tensioni, no? E questo lo rappresenta. Ma soprattutto, e poi vado verso la conclusione, io ho trovato anche un elemento importante nel raccontare questo giardino, che poi le teorie queer avrebbero successivamente un po' sviluppato, soprattutto le tendenze antisociali, che è quello di una riflessione profonda sulla morte, che le comunità queer di allora sicuramente facevano in maniera profonda, avendo una società, un virus, una struttura politica, culturale, di narrazione contro, facevano perché i compagni e le compagne morivano da un giorno all'altro. Io ho avuto anni fa, ho visto in un archivio a Carrara, ho visto dei diari, delle agende, scusate, di alcuni militanti del Fuori Italiano, e che hanno poi regalato con tutti dei materiali a questo centro, a questo archivio queer di Carrara, che si chiama Archivio Aldo Mieli, e lì dentro ci sono queste agende con nomi e numeri di telefono fissi cancellati, perché erano i compagni del Fuori che morivano, che non erano più del Fuori perché Fuori non c'era più verso la fine degli anni 80, però si erano conosciuti ai tempi del Fuori, e quindi chi lo racconta se li ricorda come i compagni del Fuori, ma comunque quella era la situazione. Allora questo giardino ce l'ha anche nella riflessione che leggiamo nel libro, che leggiamo nei diari citati, e ce l'ha il tema della morte, perché è un tema che esiste, perché è un tema con cui si fa i conti, però sembra quasi che la relazione che si instaura con Derek Jarman e il suo giardino è una relazione che si lega sicuramente alla morte, come dicevo, ma anche con una prospettiva futura, cioè una volontà di renderlo, questo termine torna in quei paragrafi, quasi un giardino, quasi un memoriale, quindi un ambiente naturale però capace di mantenere all'interno i ricordi, di mantenere le vite delle persone queer, e memoriale quindi prospettato, diciamo, in prospettiva, quindi verso le generazioni, per le generazioni future. Chiudo, c'è anche un altro evento che è interessante, che poi il capitolo 3, se non sbaglio penso sia il 3, comunque il capitolo 3 sviluppa e poi lo accompagna, e per quello che dicevo poi prima, anche diciamo con una visione, una riflessione interna, che è quello di un erotismo omosessuale che si sviluppa con Derek German all'interno e con le piante, con gli esseri vegetali del giardino, perché si instaura una relazione, che è una relazione di cura, che è una relazione intraspecie, non so come dire, oltre la mancanza di termini, una è la stanchezza, lo spritz, ma anche forse il fatto che il linguaggio non riesce ad arrivare ovunque, no? Però invece il capitolo riesce molto bene in questo, meglio di me sicuramente, però in questa riflessione c'è tutto quell'erotismo, quel desiderio, un desiderio dichiaratamente omosessuale. La natura per Derek German è omosessuale, non è eterosessuale, con tutto il portato di che cosa significava e significa oggi l'eterosessualità per un sistema capitalista, imperialista, bianco, di dominio e patriarcale. E allora è molto interessante sviluppare una riflessione, nel libro c'è, ma è aperta, quindi la rilascio qui ringraziando uno dei due autori che è qui presente, perché la riflessione che ci fa fare è anche quella di come forse in un momento di sofferenza estrema, non per vittimizzare Derek German in questo caso, però per contestualizzarlo, in quel contesto forse, quindi in un contesto anche di riflessione profonda sul proprio corpo che cambia, la relazione con le piante sublima anche in qualche modo una pulsione sessuale, erotica, che va sì con le piante, ma che forse si lega alla natura, questo termine così tanto controverso, analizzato, studiato e mai del tutto definito e definibile ad oggi forse, però appunto dalle piante arriva con la natura, e secondo me questo è davvero molto interessante ad oggi per farci riflettere oggi sui nostri rapporti da comunità queer, froce, nei confronti della natura, nei confronti anche delle nostre pulsioni profondamente, in parte sicuramente culturalmente costruite, ma c'è una parte anche più interna, psicologica, che ci lega in qualche modo a quella vischiosità, a quell'essere selvaggia, a quel giardino mai domato e mai domabile del tutto, a quel giardino che resiste al vento anche se a un certo punto cede, perché deve cedere e cede, quindi davvero. Non è una domanda, evidentemente, non dovevo fare una domanda. Quindi. Grazie. Ok. Beh, anch'io ringrazio, cioè mi unisco ai ringraziamenti per l'invito davvero, e mi unisco anche ai ringraziamenti per questo testo, che è veramente un archivio estremamente denso di genealogie, come diceva Mauro, estremamente interconnesse fra di loro, e citando il libro stesso, più ci si addentra, diciamo così, nell'immaginario eco-queer, più appunto i confini fra gli organismi e quindi anche i temi e quindi anche i capitoli e quindi anche il che cosa devo dire adesso, di cosa vi devo parlare adesso, diventa scivoloso e difficile da prendere, diciamo così. Però io volevo soffermarmi sul capitolo secondo, almeno su uno dei paragrafi, che è Eros non umano, in cui c'è questo bellissimo spaccato su un'opera che io non conoscevo assolutamente, che è il Dolphin Eroticarium di Quang Yi Ku, che è un'opera di design speculativo in cui ci si immagina, vabbè, noi siamo abituate a immaginare i nostri parchi acquatici come appunto zone di piacere soltanto umano, in cui l'animale anche lì è solamente un prodotto, in questo senso è di consumo dello spettacolo, il delfino o non so l'orca assassina si esibisce davanti a noi. Siamo abituati a intenderlo soltanto in questo modo molto, cioè già epistemicamente segnato intanto. Il Dolphin Eroticarium non è un parco acquatico in cui l'animale è introdotto in un ambiente antropizzato, ma è un luogo in cui noi siamo chiamati ad accedere a uno spazio che è sostanzialmente lo spazio marino, lo spazio oceanico, in cui c'è questa piattaforma mobile in cui i delfini e le delfine si muovono liberamente. Noi possiamo accedervi, ma è uno spazio anzitutto pensato per il piacere dei delfini, delle delfine e dei delfinu, Ci sono dei tunnel con delle particolari correnti d'aria, d'acqua. Ci sono dei tunnel con delle scanalature oppure delle sporgenze che sono adatte ai genitali delle creature marine, così che loro possano diciamo, sperimentare un piacere ricreativo, che è una cosa che i delfini fanno e che l'artista nota, fanno i delfini, ma in realtà fanno un sacco di creature non umane. Cioè il sesso a scopo riproduttivo non è assolutamente nell'agenda di nessuna e nessuno in natura e anche in contronatura. In questo spazio poi c'è anche una diciamo una stanza, chiamiamola così, anche se è un linguaggio molto antropocentrico, che è dedicata all'uso che i delfini fanno, noi lo sappiamo, o meglio, noi ci immaginiamo, dei pesci pagliaccio, che hanno delle tossine particolari per cui i delfini sostanzialmente le sniffano e si sballano un po'. Perciò c'è anche questa parte di ricreatività. E poi c'è un'ultima sala, o meglio, non c'è un'ultima, c'è un'ultima sala in cui ci sono una possibilità di incontro appunto interspecie, in cui l'essere umano può incontrare il delfino e possono avere qualche tipo di rapporto. L'essere umano può masturbare, per esempio, il delfino o la delfina. Tra l'altro, se non sbaglio, non mi ricordo se viene citato, sicuramente ci sono tutti gli esperimenti di Lilly con l'LSD per far parlare i delfini, e di fatto in quel contesto di sperimentazione c'era, se non sbaglio, un delfino che si era molto legato a Margaret Lovett, no? Cioè, si era legato eroticamente, affettivamente, quindi c'erano anche degli scambi sessuali interspecie, che è una cosa che noi non siamo abituate a inquadrare. Perché? Perché come si diceva prima, la natura per noi è un po' materia prima da estrarre e da rendere produttiva, e quindi l'unico modo che noi abbiamo per pensare la sessualità interspecifica è quella dell'allevamento. Perché c'è una profonda... Sì, oddio, c'è una... Io mi rifaccio a quest'autore molto... a cui sono legata, cioè ho incontrato per caso questo articolo che raccontava di come effettivamente è stata la carne, diciamo così, a produrre poi il discorso sul sesso, sulla bestialità e sulla zoofilia. Perché di fatto, prima, lo raccontate bene anche voi, c'era tutto questo grande macro ombrello di atti contro natura, che erano penalmente, in cui sostanzialmente contenitore penale, ma oppure morale, a seconda del momento storico, molto vago, in cui andava la sodomia e in cui andava anche la zoofilia. Noi in italiano, tra l'altro, abbiamo tre termini che il sistema giuridico adopera, che sono bestialità, zoofilia e zoerastia, a seconda del grado di desiderio, se nell'animale è stato prodotto, cioè almeno se si è prodotto del piacere dall'incontro sessuale e così via. E niente, questo autore americano, Rosenberg, fa una genealogia molto interessante dello scorporamento progressivo, o meglio dice, nel momento in cui viene poi depenalizzata la sodomia, la legge si dimentica in qualche modo anche di tracciare e di punire la zoofilia. E quindi questo discorso del punire il sesso con gli animali non umani riemerge, diciamo, all'attenzione pubblica soltanto quando poi ci sono degli effettivi casi di zoofilia. Ce ne sono tanti, molti più di quelli che ci immaginiamo e di cui parliamo. E Rosenberg in realtà non è tanto interessato ovviamente al discorso del sorvegliare e punire l'incontro con l'animale non umano, è interessato al paradosso molto peculiare, ma non tanto, che ruota attorno a proprio questa immagine profondamente contraddittoria che noi abbiamo della natura, per cui io allevatore, per esempio, adesso mi sono, cioè, venendo qui guardavo un po' di studi invece fatti in Italia su questo tema e avevo recuperato all'interno della rivista di psicodinamica criminale un rapporto del 2015 della LAV, organizzazione che io non amo particolarmente, però sostanzialmente lì veniva riportato un caso di un allevatore di Bolzano che era stato condannato perché aveva sottoposto i suoi animali a delle pratiche non compatibili, secondo appunto la giurisdizione, con la loro etologia. Perché? Perché questi animali avevano praticato degli atti sessuali con una donna ed erano stati filmati. Molto interessante, perché nell'allevamento si praticano quotidianamente atti sessuali non consenzienti, tra l'altro, con gli animali. Probabilmente adesso non voglio ovviamente parlare a sproposito, sovrascrivere una situazione, ma non voglio dire, magari quello era il sesso più consensuale che ci fosse stato mai nella storia della zootecnia e dell'allevamento. Sostanzialmente noi abbiamo un doppio paradigma per inquadrare i rapporti sessuali con l'animale, e sono o quello zootecnico, per cui sostanzialmente tutto è permesso, oppure ovviamente quello della bestialità, della zoofilia, che va poi tra l'altro anche a patologizzare l'individuo, ed è tra l'altro qualcosa di profondamente legato al sesso penetrativo, quindi anche lì è il pene che va a definire l'atto, perché noi non abbiamo o non vogliamo scegliere altri modi di leggere, diciamo così, l'atto della bestialità, della zoofilia, lo si chiami come vuole, se non attraverso lesioni penetrative. Quindi anche lì tutto il resto della sessualità non esiste mai, o c'è il pene, è sesso penetrativo o niente. E quindi vabbè, mi dispiace, adesso ho fatto un intervento un po' dark, però in realtà è interessante, è più interessante di così, o comunque può essere molto interessante il tema dell'eros non umano, e tra l'altro apre questo libro un riferimento a quel bellissimo affresco della Villa dei Misteri di Pompei, in cui c'è una figura femminile con le orecchie caprine che allatta un cerbiatto. E così come per esempio in Amare gli animali, sempre vostro, c'è questa immagine di apertura di questo quadro, non mi ricordo, del 600-700, con questa bambina che tiene in braccio un cagnolino che sostanzialmente le sfrega la vulva con la coda. Ecco, questo tema degli incontri sessuali fra esseri umani e animali non umani storicamente si è letto in tanti modi diversi. Ho presente per esempio, sempre grazie a Rosenberg, dei processi per zoofilia in cui per esempio veniva punito assieme all'essere umano anche l'animale non umano, perché era colpevole di aver peccato, appunto, essere andato contro natura, ad essersi innamorato della persona con cui aveva avuto un rapporto. E però appunto leggendo di queste cose, forse appunto per il mio posizionamento, io non posso che pensare all'allevamento e alla zootecnia, in cui tutte queste pratiche diventano soltanto forma di violenza, di stupro, di controllo, e niente, non so bene cosa dire su questo perché è difficile. Ma, prova a dire qualcosa, non so, prova a improvvisare un po'. No, allora, ricollegandomi all'ultimo intervento, e poi torno anche invece a Derek German, allora, la questione che noi volevamo affrontare nel libro era proprio riuscire a dare uno spaccato rispetto a come tradizionalmente siamo abituati a rappresentare, per l'appunto, sia la sessualità nel regno animale che la sessualità nel regno vegetale. Ora, l'opera che è stata citata a proposito del Dolphin Eroticarium, no? È chiaramente un'opera appunto di design speculativo, quindi in realtà non esiste ovviamente questa vasca per la masturbazione dei delfini. Però l'obiettivo, diciamo, di quest'opera molto sovversiva, molto, cioè io insegno anche all'Accademia di Belle Arti, e mi rendo conto che quando ho presentato quest'opera molti dei miei studenti sono rimasti un po' così, cioè si sono un po' indignati, no? Perché anche facendo in realtà delle osservazioni molto corrette, nel senso che appunto immaginare un'opera del genere in cui si arriva anche a masturbare dei delfini è un po' un'ottica antropocentrica rispetto a quella che è in realtà la condizione, diciamo, naturale di questa specie. Però chiaramente non è quello l'obiettivo, cioè l'obiettivo non è realmente creare una vasca con queste finalità, questi obiettivi, quanto piuttosto dare innanzitutto un'idea molto più sfaccettata rispetto a come siamo abituati a considerare la sessualità animale, e nello specifico la sessualità dei delfini, che è molto più complessa, molto meno antropomorfica rispetto a quella che possiamo noi immaginare con diciamo le nostre categorie con cui solitamente circoscriviamo l'ambito della sessualità, e poi ovviamente anche quello di porre una critica nei confronti del parco acquatico per come noi siamo soliti appunto immaginarlo, cioè fatto ad uso esclusivo del nostro intrattenimento, che è un po' quello il fulcro di quello che abbiamo cercato di indagare con questo libro, cioè cercare di far uscire le soggettività animali, vegetali, da quello statuto di oggetto, da quel processo di oggettificazione a cui noi come esseri umani storicamente nella nostra tradizione occidentale li abbiamo relegati. Quindi in realtà l'interesse è proprio quello di mostrare quanto la sessualità animale ma anche vegetale sia complessa, molto più come dire, indecifrabile quasi rispetto alle categorie che noi utilizziamo per codificare, no, la sessualità. E rispetto alla sessualità animale ci sono anche tantissimi altri esempi sempre di rappresentazioni, quindi sempre nell'ambito dell'arte contemporanea ma anche del cinema. Per esempio mi viene in mente Isabella Rossellini, che ha fatto dei lavori meravigliosi, no, dei corti cinematografici in cui è lei stessa a interpretare diciamo delle specie animali presentando i loro comportamenti sessuali un po' che noi considereremmo come esseri umani, come dire, un po' strambi, no? Un po' atipici. Non so, per esempio l'ape che dopo l'accoppiamento, l'ape maschio, quindi il fuco, muore dopo aver lasciato il proprio pungiglione nel ventre dell'ape femmina, e tutta una serie di altri comportamenti sessuali nel regno animale che fondamentalmente ci restituiscono un quadro molto più complesso di cui solitamente, cioè a cui solitamente siamo abituati. E questo per dire cosa? Per dire che sì, l'interesse nostro era innanzitutto quello di contrastare l'immaginario eco-etero-normativo con cui abitualmente noi rappresentiamo il mondo naturale. Il mondo naturale sia animale che vegetale. E venendo al mondo vegetale, perché abbiamo affrontato la questione di Derek Jerman, il giardino? Il giardino è una parte, diciamo, sì, importante del libro. Affrontiamo un po' la storia di come nasce, no, il giardino. Il giardino è letteralmente il tentativo di amministrare la natura, cioè gli esseri umani che decidono di circoscrivere all'interno appunto di un perimetro una porzione di natura da controllare, da dominare da questo punto di vista, cioè selezionano loro le specie vegetali da coltivare, da far crescere, ed è, se pensate per esempio al giardino all'inglese, è esattamente questo, cioè un tentativo di amministrazione della natura che è agli antipodi rispetto a quello che fa Derek Jerman, perché Derek Jerman, che aveva un'avversione nei confronti del giardino all'inglese, costruisce in realtà questo suo giardino completamente, diciamo, quasi con specie appunto autoctone, selvaggio, pieno di erbacce. Ritorniamo alla questione delle erbacce, no? Perché noi siamo soliti nelle nostre anche città eliminare, estirpare le erbacce come qualcosa di alieno, qualcosa da rimuovere, da togliere, che va in un certo senso a inquinare il paesaggio naturale artificiale, in realtà, perché in realtà è profondamente artificiale, che noi costruiamo nelle città. Mentre Derek Jerman ha creato questo, appunto, questo spazio completamente indisciplinato, pieno di quello che cresceva fondamentalmente lì, che si identifica nella storia personale del regista come il giardino, come un luogo di anche riconoscimento e autodeterminazione della propria identità omosessuale. Perché Derek Jerman nei suoi diari ci racconta di come la prima esperienza che ha vissuto in intimità con una persona dello stesso sesso sia avvenuta proprio all'interno di un giardino, e ci racconta proprio di questo momento in cui lui era giovane, un ragazzino, per lui era un momento ovviamente, cioè un momento di riconoscimento della propria identità, in questa pulsione, attrazione provata nei confronti di questo ragazzo. E lì, in questo, diciamo, ambiente, scenario naturale, in questo giardino, lui ha come dire, trovato se stesso, ha trovato, diciamo, la propria identità omosessuale, ed è quello che poi ha coltivato, cioè ha coltivato appunto questa stessa, questo stesso desiderio di autodeterminazione, di anche di memoria rispetto alla propria vita, che era ormai, come dire, in una situazione di fine, no? Nel momento in cui lui ha acquistato la casa a Prospect Cottage, in realtà lui stava per morire, gli sarebbero rimasti pochi anni da vivere, però quel luogo era un luogo di, anche di memoria, di incontro con persone, personaggi importanti nella sua vita, che nei suoi diari appunto racconta. Arrivavano lì e 2 mesi dopo non c'erano più, erano persone morte a causa dell'AIDS, e quindi quel luogo era un luogo in realtà di cura, non solo nei confronti di una natura non disciplinata, non amministrata e selezionata, ma era un luogo proprio di cura anche nei confronti delle persone che lo attraversavano. Che è tutto poi il contrario rispetto alla storia del giardino, che sin dalla sua nascita, diciamo, ha sempre avuto delle connotazioni, a partire dall'antico Egitto fino ad arrivare al Rinascimento, delle connotazioni o di un luogo, diciamo, che riproduceva il potere, no, politico, o anche aveva delle valenze simboliche, o nel Medioevo per esempio era utilizzato dai monaci per raccogliere delle piante medicinali. Nel Rinascimento invece diventa un luogo in cui selezionare delle specie, con la nascita dei giardini botanici. Quindi la nascita dei giardini botanici si lega strettamente con la nascita del colonialismo, perché di fatto sono quei luoghi in cui vengono prelevate delle specie vegetali da altri paesi conquistati e portati nei paesi, invece, nelle grandi potenze appunto europee. Uno dei primi giardini botanici appunto è quello in inglese, in Inghilterra, i Kew Gardens, e tutto questo lavoro fatto ovviamente attraverso lo sfruttamento proprio degli schiavi, a causa proprio del colonialismo, no? Quindi c'è tutta la storia del giardino, poi invece nell'ottica del giardinaggio queer si trasforma, diciamo, da un luogo, il giardino, da luogo in cui amministrare, selezionare, dominare la natura, a un luogo in cui... diciamo, sì, liberare, emancipare, però è proprio una questione di cura. Cioè, era questo l'aspetto che volevamo evidenziare, cioè il giardino come luogo di cura, il giardino, perché anche la stessa cura, no, del giardino, delle specie vegetali, cioè il far crescere delle piante, è qualcosa che ti mette in, diciamo, in comunione con un aspetto... cioè, con il non umano, no? Cioè l'atto del giardinaggio, il giardinaggio è un'azione di cura, è un'azione di cura situata all'interno di un discorso queer, può diventare anche un'azione di emancipazione di alcune soggettività come Derek German, che hanno trasformato quel luogo geografico, quel luogo intimo, personale, in un luogo di autodeterminazione, di riconoscimento della propria identità. Quindi quello che noi volevamo fare in generale con questo libro era innanzitutto estendere la nozione di queer al di là delle soggettività oppresse, quindi umane. Non ci interessava soltanto affrontare la questione omosessuale, la questione non binaria, transessuale, ma estendere l'ottica del queer ovviamente a una prospettiva decoloniale, ma a una prospettiva soprattutto che includa le forme di vita animali e vegetali, ovvero tutte quelle forme di vita che sono state storicamente assoggettate e oggettificate. Boh, fine così, non lo so. Comunque grazie per tutti i complimenti, mi mette sempre un po' di ansia perché sembra di parlare tipo con l'ospite presente, cioè parlare del mio libro mentre sono qui mi mette un po' in imbarazzo, quindi grazie per averlo apprezzato. Ma in attesa che magari qualcuno voglia intervenire, Un altro modo, secondo me, appunto, di avvicinarsi a questo libro è un po' quello che stava venendo fuori, stava accennando adesso Dario, cioè uno sguardo particolare su tutti quei rapporti di interdipendenza che si vanno poi appunto a ridefinire se si sospende l'eteronormatività che ci fa vedere la natura come appunto qualcosa di altro da noi, comunque da sfruttare. E questi rapporti di interdipendenza possono, e in questo libro diciamo è quasi un catalogo di occasioni in cui questi rapporti di interdipendenza finiscono per essere dei rapporti dove c'è tanto eros, dove c'è tanto desiderio, dove c'è tanta voglia di contatto, perché è un contatto appunto che viene giocato facendo saltare per aria le normali e le tradizionali categorie con cui ci relazioniamo con col cosiddetto mondo della natura. E, a me veniva in mente anche un vecchio librino a cui sono particolarmente affezionato, che è il Sex Appeal dell'inorganico di Mario Perniola, che rifletteva proprio su, ovviamente da tutta un'altra prospettiva, però sul rapporto che noi possiamo sviluppare con un altro da noi che può essere tanto dentro natura quanto fuori dalla natura, quindi un rapporto, lui arrivava a coniare questa espressione di cose tra le cose, di cose che sentono e del rapporto che le cose che sentono, che siamo tutte noi ma non solo, possono intrattenere con un'alterità di cui non ti vuoi appropriare necessariamente in senso capitalistico. E quindi c'è tutto il tema del desiderio per l'inutile, un inutile che è un elemento di grande sovversione, perché appunto quello che è inutile non può essere riappropriabile, non può essere estratto e processato e emesso a valore dalla mega macchina del capitale. E quindi insieme al desiderio dell'inutile poi c'è quest'altro filo, secondo me, che passa attraverso molti esempi che vengono fatti nel libro, che è quello, come dire, insieme all'inutile, dell'identità, ovviamente, cioè del non offrire un'identità stabile e immutabile, e quindi di giocare su un elemento che in realtà è capace di trasformarsi ed è capace di cambiare, e, proprio per sfuggire a una norma che invece, come dire, è molto brava e molto veloce nel capitalismo attuale a costruire caselle, per cui ogni identità è una casella, e una volta che il capitalismo tecnocratico di oggi costruisce una casella, ha uno spazio in cui metterti e in cui metterti a valore, no? E invece è interessante ragionare su tutte quelle occasioni in cui questo non avviene, perché non c'è la volontà di iscriversi in una casella. E il libro è anche questo, questa ricognizione tra questi mondi che stanno appunto in between, come si diceva prima, e appunto secondo me ha anche questo valore proprio di offrire un catalogo di occasioni, di esempi su cui riflettere, ma anche di cui sorridere e di cui ridere, perché il libro è molto meno tetro in realtà di come è venuto un po' fuori nella conversazione che stiamo avendo in questo momento. Se qualcuno vuole intervenire, se puoi venire al microfono, così no, è uguale, viene registrato. No, vabbè, la domanda è sul contenuto dell'Ipeo, nel senso che volevo chiedere se, soprattutto perché si parlava del concetto di mostruosità, se la crisi climatica ha un ruolo in questo libro e il fatto che la violenza che arriverà sarà in qualche modo mostruosa sotto un certo punto di vista. In questo periodo mi stavo leggendo Diluvio e raga, cioè, non leggetevelo perché è importante, ma non leggetevelo perché è una depressione allucinante. E, cioè, e il fatto che noi saremo costretti a mangiare i cani per raggiungere un tasso di equilibrio fisico di qualche tipo per sopravvivere. Cioè, è una prospettiva reale. E quindi mi chiedo appunto, in questo senso, cioè, una natura che in qualche modo scardina in ogni modo la nostra concezione, le nostre concezioni di natura, in qualche modo, se hanno un ruolo nel libro e se ci sono state delle risposte a riguardo. Perché per quanto a livello filosofico e degli studi queer e decoloniali, questa riflessione, che almeno nella presentazione, poi appunto il libro non l'ho letto ancora, però è stata fatta, da alcune risposte, almeno mi sembra, cioè, forse mi sembra, a volte sembra tutto troppo poco, no? Di fronte alle catastrofi che arriveranno, cioè, di fatto, insomma. Quindi sì, questa è la mia domanda, e se c'è stata una riflessione a riguardo. Okay. Allora, diciamo che lo scenario di mangiare cani o comunque degli esseri viventi, animali, non è nella, cioè non credo che sarà, come dire, lo scenario che voglio abbracciare assolutamente. Però no, sì, è affrontata sicuramente il tema della catastrofe climatica, perché in realtà è il presupposto. Cioè, il presupposto è quello che viviamo nell'epoca dell'antropocene, che poi lo possiamo chiamare in altri modi, ovvero il capitalocene, perché se vogliamo trovare l'origine di questi cambiamenti ambientali, possiamo, come dire, anche individuare delle precise strutture economiche e politiche, come per esempio la storia del capitalismo. Ma vabbè, lasciamo stare tutto alla nomenclatura di come possiamo definirlo. Ed è, tra l'altro, questo affrontato all'interno del libro, nel senso che si fa una storia proprio di come anche gli scienziati si stiano interrogando oggi sulla classificazione della nuova era geologica in cui viviamo, ovvero il capitalocene rispetto all'olocene, che sarebbe l'epoca geologica in cui abbiamo vissuto fino all'altro ieri, diciamo. Così come anche filosofi che si interrogano su quanto in realtà antropocene sia un termine che dice poco, perché antropocene dà una responsabilità indistinta a tutti gli esseri umani, mentre sappiamo benissimo che alcune società hanno contribuito più di altre ad arrivare alla situazione in cui viviamo oggi, cioè quella, l'era del di disastro climatico, e sono le società ovviamente più ricche storicamente che hanno depauperato i nostri ecosistemi fino a distruggerli. Detto questo, però, questo è l'assunto di partenza. Quello che propone il libro è anche, non una via catastrofista, perché nel senso noi cioè non appartiene al mio pensiero, per quanto io sia molto cinico, però non mi piace quell'estetica, diciamo, della fine, no? Quell'estetica proprio quasi, cioè il rendere l'apocalisse come è andato anche, diciamo, molto, tra virgolette, di moda in molti testi filosofici negli ultimi anni. Però quell'estetica dell'apocalisse a me non appartiene, né a Vincenzo. Quindi abbiamo voluto proporre invece un'estetica completamente di segno opposto, cioè è possibile nell'epoca della catastrofe climatica in realtà immaginare un mondo diverso. Poi naturalmente noi non proponiamo delle soluzioni politiche, oddio, potrebbero anche, però nel senso noi ci siamo occupati di rappresentazioni, immaginari, di immagini proprio. Poi che queste si possano tradurre anche in etica e politica, chiaramente noi lo pensiamo, siamo assolutamente a favore di questa interpretazione, però quello su cui noi lavoriamo è provare a riscrivere il nostro immaginario, cioè l'immaginario non della catastrofe, ma un immaginario in cui riusciamo a modificare il modo in cui abbiamo rappresentato e concepito la natura fino ad oggi, che comprenda proprio cioè un'uscita dalla catastrofe climatica. Ci sono anche diversi esempi all'interno del libro, per esempio mi viene in mente Lee Pivnik, un artista che ha lavorato proprio, ha presentato un progetto di sci-fiction in cui racconta di questo gruppo di queer mutanti che sono sopravvissuti a una catastrofe climatica a Miami, perché sapete la situazione di Miami da un punto di vista ambientale è molto critica, quindi proiettando questo scenario nel 2070, non ricordo, comunque nel futuro, e cercando di dare proprio, di restituire un immaginario in cui si possa in qualche modo superare il semplice catastrofismo e l'apocalittismo. Poi detto questo, sì, è chiaro che la catastrofe climatica, ripeto, è lo sfondo in cui ci muoviamo all'interno del libro. Le soluzioni politiche probabilmente non sono direttamente presentate all'interno del libro, perché non rientra nel nostro ambito proprio di sapere, delle nostre competenze, però proponiamo la riscrittura di un immaginario e le rappresentazioni, non sottovalutiamo il potere delle rappresentazioni, perché in realtà le rappresentazioni contribuiscono tantissimo a prescrivere il nostro modo di concepire la natura. Cioè la natura, per come noi la immaginiamo oggi, non è solo descrittiva, non descrive solo uno stato di cose, ma è anche prescrittiva, ed è prescrittiva nella misura in cui appunto la dialettica natura contro natura, che è il titolo del libro, è quello che ci dice cos'è naturale e cos'è antinaturale, così contrario alla natura. Ho fatto un casino nel frattempo, così. Quindi questo per dire cosa? Boh, mi sono perso nei miei pensieri, nei miei labirinti mentali, però sì, affrontiamo la catastrofe climatica nello sfondo, diciamo, dei temi che trattiamo e che affrontiamo.